L'altro pianeta di Laura Bettini. Buonasera, ben ritrovati, una nuova puntata dell'Altro Pianeta, che è anche l'ultima puntata del mese di agosto e quindi possiamo dire quasi un buon momento per tracciare un bilancio, contare quante bibite in lattina o quanti cibi in scatola abbiamo consumato durante l'estate. Perché ecco, stasera parleremo proprio di recupero e riciclo di imballaggi metallici, quindi scatole per bevande, tappi a corona, capsule e così via, fino ai manufatti di grandi dimensioni con cui di solito non abbiamo a che fare nella vita quotidiana, ma che comunque esistono, come i fusti in lamierino d'acciaio. È un tema, quello dei rifiuti, su cui insistiamo molto da sempre perché è fondamentale per contrastare mille altri fenomeni di degrado di questo pianeta. In questa puntata riascolteremo anche alcuni passaggi dell'intervista che realizzammo qualche mese fa con Luca Mercalli, in cui parlammo tra l'altro del tema, appunto, dello sfruttamento delle risorse del pianeta e dei rifiuti. Ma per tornare ai metalli, il nostro interlocutore è un fabbricante questa volta, non è un consorzio di recupero, è Rosolino Redaelli, presidente di Anfima, associazione nazionale tra i fabbricanti di imballaggi metallici affini. Ma attenzione, soprattutto in questo ambito, i fabbricanti sono interessati al recupero e al riciclo tanto quanto i consorzi come il CIAL, che si occupa dell'alluminio, o il CNA, che si occupa dell'acciaio. In questo campo, infatti, le spese possono variare e di molto a seconda dell'origine del materiale su cui si lavora. Quest'anno Anfima ha anche organizzato e ospitato l'Assemblea Generale dell'EMPAC, l'Associazione dei Produttori Europei di Imballaggi Metallici Rigidi, e quindi con Redaelli abbiamo parlato di tutte e due le cose, della situazione italiana, dell'Europa e dell'Italia in rapporto con l'Europa. Noi abbiamo raggiunto quest'anno una percentuale di riciclo del 75,5% dell'immesso al consumo, vale a dire di tutte le lattine che sono state commercializzate sul mercato italiano. È un risultato estremamente lusinghiero perché ormai 3 lattine su 4 vengono avviate al riciclo e vengono recuperate. Questo nonostante la crisi, che tra l'altro immagino abbia ridotto i consumi in generale. Sì, purtroppo ha ridotto i consumi anche delle nostre lattine, anche se in realtà diciamo che è stata una riduzione abbastanza contenuta, e noi ci auguriamo proprio per queste percentuali di riciclo così elevate, per la sostenibilità del nostro contenitore, ci auguriamo insomma che questo possa essere anche positivo anche in termini di consumo poi delle lattine, perché se un contenitore si ricicla come si ricicla il nostro all'infinito e completamente al 100%, penso che questo possa essere anche un buon motivo per promuoverlo commercialmente. Ecco. Questi dati positivi riguardano l'Italia e l'Europa? Sì, diciamo che noi abbiamo raggiunto forse una percentuale leggermente superiore alla media europea, però anche l'Europa si attesta su una percentuale superiore al 70%, diciamo che intorno al 72%. Ecco, noi italiani abbiamo fatto qualcosina in più ancora. E direi, ecco, a questo proposito, se mi permette, vorrei sottolineare che a livello europeo, non solamente italiano, l'obiettivo di riciclo è di arrivare all'80%. Quindi però la portata direi, insomma, visto direi l'andamento. Sì, ormai la strada è avviata, quindi potremmo arrivare all'80% nel giro di poco tempo, chissà, magari anche oltre. Questo sarebbe l'auspicio del nostro settore e devo dire anche del mercato dei nostri clienti, che ci spinge sempre di più a obiettivi ancora più ambiziosi. Questo, diciamo, 20 e qualcosa in più per cento, insomma, che manca, è un difetto dei cittadini che non partecipano? Sì, direi sostanzialmente, probabilmente se tutti i cittadini facessero la raccolta differenziata arriveremmo molto vicini al 100%, perché teniamo presente che gli imballaggi metallici sono molto facili da riciclare, quindi più cittadini faranno la raccolta differenziata e più naturalmente la percentuale aumenterà, si può arrivare anche al 100%, perché effettivamente il nostro imballaggio è l'imballaggio che più facilmente si ricicla. Beh, insomma, le prospettive sono buone. Oggi, come mai quest'anno l'Italia per questo incontro europeo? C'era un motivo particolare? Era il vostro turno? Ma guardi, direi, questo lo posso dire io perché ho curato l'organizzazione in tutti i dettagli. Diciamo che si fa a turno, però in particolare quest'anno, che è un anno anche difficile per l'economia italiana, in particolare europea in generale, ma italiana, insomma, sappiamo che i paesi del sud Europa in questo momento hanno più difficoltà di quelli del nord. È stato da parte dell'associazione nostra di Anfima la volontà di organizzarlo quest'anno, prima di tutto per far vedere che l'economia italiana e quella del sud Europa in generale è ancora molto vitale, e poi anche per un'altra questione, per sottolineare che l'industria degli imballaggi metallici in Italia è molto importante, è la seconda industria più importante in Europa, perché c'è una presenza significativa, molto significativa, di aziende multinazionali, ma siccome siamo in Italia anche di aziende medio-piccole, e quindi per sottolineare la vitalità dell'industria italiana anche nel nostro settore, in particolare in un anno come questo. Mi dica in conclusione chi è, siccome siamo la seconda, chi è la prima economia in questo settore? Beh, ça va sans dire, si direbbe, la Germania, anche se devo dire che a livello numerico di aziende l'Italia è, insieme alla Spagna, è l'associazione che ha più soci. Quindi insomma siamo secondi, ma con vitalità, ecco. Assolutamente con vitalità, le nostre aziende sono molto vive e vitali, collaborano con noi, e diciamo che posso dire che anche nell'organizzazione di questo evento, che è stato apprezzato da tutti, ci è stato riconosciuto la grande dinamicità e vitalità dell'azienda italiana, ecco. Anche nel nostro settore diciamo che teniamo alto il nome dell'Italia. Quindi dobbiamo vedere le cose con ottimismo e guardare avanti. E sapere che questa del recupero e del riciclo è una via per la ripresa, per la crescita anche. Assolutamente, questo è molto importante ed è uno dei temi fondamentali che sono usciti da questi lavori. Cioè l'idea di saper comunicare la sostenibilità del nostro contenitore, che è sicuramente è uno dei punti di forza che dobbiamo sviluppare, comunicare in modo tale che nonostante la crisi il nostro settore possa crescere. E a questo punto riportiamo il discorso su temi più generali. Parliamo spesso in questa trasmissione di rifiuti, che sono certamente uno dei problemi più assillanti della nostra società globale, anche se ovviamente non sono l'unico grande problema. Un altro di quelli grandi, è certamente lo sfruttamento delle risorse del pianeta, che in fondo comunque è legato alla questione dei rifiuti. Ecco, di sfruttamento delle risorse in particolare abbiamo parlato nei mesi scorsi presentandovi il docufilm Planet Ocean, diretto da Yann Arthus Bertrand e Michel Pitiot e creato in collaborazione con Omega, doppiato nella versione italiana da Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana e noto divulgatore scientifico. Quanto a lungo può sopportarci il pianeta, gli chiedemmo? Se non prendiamo coscienza dei limiti del pianeta, questo quanto a lungo è un periodo sempre più ridotto, o meglio, siamo destinati a un certo punto a avere meno risorse e andare incontro a una diminuzione della nostra qualità della vita. Ricordiamo che siamo 7 miliardi e che ogni giorno ci sono nuove persone che sul pianeta chiedono la loro parte di una torta sempre più piccola, e quindi il film invita a riflettere sulla più grande sfida che l'umanità ha davanti. A me sembra importante anche che invita a riflettere e dà l'idea che si possa fare qualcosa, no? Che non è un film catastrofista che dice è finita, è troppo tardi. Tutt'altro, perché non avrebbe senso, secondo me, fare dei film catastrofisti che dicono è troppo tardi, perché allora si fa una fiction e la si guarda come qualsiasi film dell'horror. Invece, quando si fa un documentario c'è sempre la via d'uscita, c'è sempre il tentativo di avvertire le persone che di fronte a un pericolo che si è riconosciuto esistono poi dei comportamenti, delle uscite di sicurezza che ci possono permettere di evitarlo. E secondo me il lavoro che fa Yann Arthus-Bertrand è quello di permettere anche alle persone comuni che sono al di fuori dell'ambito scientifico nel quale queste informazioni già girano da anni sulle riviste specializzate o tra gli addetti ai lavori, per permetterci di prima emozionarci, perché attraverso le immagini, la musica, passano delle emozioni forti che predispongono le persone a essere ricettive. E poi ecco il messaggio importante: attenti, così non si può continuare, basato su dati rigorosamente scientifici. A proposito di questo tema, leggevo nei vari materiali di presentazione un'intervista, appunto proprio a te, che diceva è possibile che la scienza debba trovare un nuovo linguaggio per avvicinarsi alla sensibilità e alla comprensione comune? Questa era la domanda e la risposta era: la scienza può certamente migliorare la propria attitudine, ma non dovrebbe essere anche la persona comune a essere più preparata? Forse nelle nostre scuole, nelle nostre università dovremmo puntare di più su una formazione scientifica perché le persone siano in grado di capire questi temi e di affrontarli quotidianamente? È sicuro, anche perché noi tendiamo a vedere solo un pezzo minuscolo del grande panorama della storia del mondo. Quindi ognuno di noi alla fine, quando va al supermercato e compra un salmone, compra un tonno e se lo mangia tranquillo sulla propria tavola, non ci pensa. Non è normalmente portato a vedere tutto quello che c'è dietro, no? E quindi la scienza serve a darci la credibilità e il rigore scientifico dei dati. Poi però ci vuole anche un contesto nel quale metterli, ed è ciò che fa il film, che in 90 minuti ti mette davanti tutta la gigantesca realtà che ciascuno di noi non può immaginare quando vede un pesce in mezzo ai cubetti di ghiaccio nel banco dove lo sta per comprare. È in realtà che però c'è e che quindi va considerata senz'altro. Direi che va ricordato assolutamente agli ascoltatori che questo film è disponibile, cioè chi lo vuole vedere, ne abbiamo parlato per 10 minuti, ma chi lo vuole vedere lo trova in DVD o in Blu-ray, lo trova nella grande distribuzione, quindi le catene Feltrinelli, Fnac, Mondadori e così via, sicuramente ce l'hanno, lo possono sentire con la tua voce, Luca Mercalli, che è un personaggio ormai notissimo. La tua esperienza di divulgatore, da dove è nata? Ma direi che è nata fin da molti anni fa. Cioè, io quando ho iniziato a occuparmi di studi sul clima e sui ghiacciai in particolare, sto parlando di 25 anni fa, ho subito sentito l'esigenza di comunicare ciò che vedevo, ciò che scoprivo nella mia attività di ricerca, e quindi direi che poi ho coltivato questa attitudine che oggi rappresenta circa il 50% del mio lavoro. Quindi metà della mia attività è ricerca scientifica, ma l'altra metà è subito proporne i risultati al pubblico. E il pubblico a quali stimoli ha reagito meglio nel corso degli anni, vista appunto la lunga esperienza? Ha reagito meglio, non lo so, appunto ai film, alle provocazioni, alle che ne so, che cosa? Direi a nessuno di tutti gli stimoli. un complesso di stimoli. Sì, è un grande punto interrogativo quello che sia io e i miei colleghi abbiamo davanti. Cioè c'è una sorta di grande rimozione dei problemi planetari. Più o meno in tutti questi 20 anni li abbiamo visti da tutte le parti comparire sui giornali, sulle televisioni. Adesso abbiamo anche internet che ci propone una quantità enorme di informazioni. Eppure, insomma, tendiamo sempre un po' a girare la testa dall'altra parte e dire: ma andiamo avanti così che tutto va bene. A proposito, quindi, di testa dall'altra parte, l'altro giorno ho sentito una cosa, vorrei condividere con te. Non so se conosci Cava Grande del Cassibile, siamo in Sicilia, un'area che, nella quale verrebbe così, è pronto un progetto per mettere una discarica. Mi pare che anche questo sia classica cosa dello struzzo: vado in un'area come quella, nascondo in questo enorme canyon i rifiuti e poi faccio finta di non produrne più. Perché non li vedo. Il film di Yann Arthus-Bertrand è bellissimo perché ci fa vedere anche questo aspetto. Nelle immagini tremende degli albatros morti con lo stomaco pieno di residui di plastica, ci fa capire che i rifiuti non si possono nascondere. Prima o poi tornano fuori e ci fanno male come un boomerang. E per questa puntata ci fermiamo qui. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora, infatti non cambia dopo le vacanze il palinsesto di Radio 24. Proseguiamo in questo orario fino alla fine di settembre. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.